Ovviamente adesso io spero che ci siano numerosi interventi, testimonianze, domande, ma anche non domande, da parte di coloro che sono presenti in sala. Buonasera a tutti, il mio nome è Piero Lavilda e ringrazio gli organizzatori di questa manifestazione per avermi invitato e per l'onore che hanno fatto alla nostra famiglia di esporre quel piccolo motociclo che avete visto in entrata, il cui colore anche oggi è di mob, è un azzurro metallizzato. E desideravo solo dire due cose, una un po' diciamo di colore simpatica e una un po' di carattere tecnico. Il che è questa, quella motocicletta lì, quando uscirete potete dare un'occhiata, è una moto del 52, del 1952. Siamo negli anni del dopoguerra, quando è iniziato lo sviluppo economico industriale dell'Italia del dopoguerra, la famosa ricostruzione del dopoguerra, dove le aziende che avevano dei know-how tecnico o meccanici e nel campo della motoristica, diciamo auto e moto, hanno tutte cercato di fare un prodotto a bassissimo costo per poter permettere alla popolazione un mezzo di trasporto per andare al lavoro molto semplice e molto economico. Così hanno fatto le auto, producendo le 500 o le 600. La mitica Topolino era nata ancora prima della guerra, ma subito dopo sono nate delle automobili di quel tipo lì. E così ha fatto la moto Lavenda, come ha fatto Piaggio con la famosa Vespa, che è un prodotto industriale metico in tutto il mondo. E quella moto lì, per darvi un'idea, è un motore quattro tempi, a benzina normale, che vuol dire 80-85 ottani, cioè neanche il confronto con la benzina che usiamo noi oggi. Un motore di caratteristiche prettamente turistiche. Voi sapete, le grandi categorie sono dei veicoli, sono turistici, GT, Gran Turismo e sportivi, siamo proprio nella prima categoria. Faceva con un litro 80 km e non aveva bisogno di alcuna manutenzione, se non quello che costava di più come manutenzione erano le forature delle gomme, perché le strade all'epoca, soprattutto per la manodopera che veniva dal circondario della cittadina di Breganze, erano tutte strade bianche e quindi facilmente foravano. Era normale avere al posto del sedino dietro una camera d'aria avvolta in un elastico di gomma da tenere sempre di scontro. E questo proprio a me è simpatico, la moto lì fa parte della collezione della nostra famiglia e è una delle moto che amo di più, perché mi testimonia il lavoro fatto da mio padre quando ha deciso di lasciare il settore macchine agricole in cui era direttore tecnico per avviare un'attività in proprio, per cercare di dare un contributo allo sviluppo economico sociale italiano di quel periodo. Dovete sapere che la macchina agricola nasce nel 1873, quindi è uno dei capisaldi dell'industria dell'Alto Vicentino. Pensavo prima, finché lei parlava, nomi come Marzotto, le smalterie, la Lagarda, sono proprio i pilastri dello sviluppo economico industriale di queste aree. La seconda è questa: mio padre aveva un'idea, era sempre stato molto innovativo, lui era laureato in fisica e matematica, non era un progettista, ma fin da bambino era cresciuto nell'azienda del nonno e era appassionato proprio del processo fusorio, della fonderia e della meccanica medio-fine, e ha sempre portato avanti delle innovazioni molto importanti. Nel campo della moto, oltre ad avere questo veicolo estremamente economico ed utilitario, lui aveva l'idea che all'epoca che le ragazze dovessero iniziare ad andare in moto, e non solo gli uomini, non solo i ragazzi. Gli ha disegnato quel telaio aperto che vedete voi, che c'è un serbatoio a spazio, poi c'è un telaio che scende verso il basso. E la ragione di questo telaio, fatto così, oltre ad essere fatto in lamiera stampata per poter essere prodotto in grandi serie a valori, a costi ragionevoli, e per questo si è appoggiato alle batterie, perché nel 52 la moto Mother era nelle fasi di inizio, è nata nel 49, ma la prima produzione è stata fatta nel 51. Nel 51 hanno fatto i primi 50 pezzi, la pre-serie, nel 52 è iniziata la serie di produzione vera e propria. Pensate che nel 53, quindi a distanza solo di due anni e mezzo, facevano già 5.000 moto all'anno. Quindi è esploso proprio questo prodotto due ruote. Allora, tornando alla cosa un po' di colore, lui voleva provare a dare qualcosa per le ragazze che andassero con le moto. E le ragazze allora non avevano i pantaloni come la signora, ma avevano tutte le cotole, si diceva. Ed è finita che, commercializzata la moto, nessuna delle ragazze, né di Breganze, né di dintorni, né a livello italiano, è andata con questa moto. Però oggi si chiama la pretina, perché tutti i preti la usavano perché avevano la tonaca. No, noi siamo arrivati in Inghilterra negli anni 60 per l'esportazione. Volevo infine portare una nota di carattere invece economico e industriale, perché è stata molto interessante l'esposizione che ha fatto il signore, perché mi ha ricordato, io ho vissuto tutta la fase degli anni 60, 70 e 80 fino ad oggi, ho sempre lavorato prima come azionista e dirigente industriale e poi solo come dirigente industriale in qualche multinazionale estera. Ed è veramente, ho avuto questo flash di come si è evoluta la situazione, ed è un'esperienza, quella di batteria, veramente significativa, e mi auguro che i giovani o coloro che controlleranno la politica economica locale e nazionale facciano tesoro di questa esperienza, perché io ne ho avuto una di analoga, dico subito, con fortissimi contrasti tra parte sindacale e parte aziendale, perché non so se ricordate, ma molti di voi hanno qualche anno più di me, dopo il 68 c'era un clima industriale molto difficile, molto duro. E il problema di fondo, perché molte aziende non ce l'hanno fatta, non è tanto nell'innovazione del prodotto, a mio giudizio, è nella mancanza di relazioni industriali. C'erano delle relazioni industriali pessime in quel periodo. C'era da un lato la proprietà che si batteva per tutelare la propria azienda, dall'altro c'era un sindacato che si batteva slegandosi dalla realtà industriale, cercando la sicurezza economica della parte che rappresentava. È mancato molto buon senso, è mancato molto pragmatismo. Io personalmente sono stato considerato per molti anni uno sfruttatore delle camicie blu o delle tute blu, e vi dico francamente che nella mia vita ho sempre avuto rispetto per il prossimo. Ma era un pensiero, un contesto, una lotta di fondo anche ideologica che non ha permesso di trovare delle soluzioni valide. Mi auguro che per il futuro l'esperienza delle sbatterie e l'esperienza oggi anche della moto Lavida serva proprio per affrontare in modo un po' più drammatico, più drammatico le cose. E di fondo, credetemi, come ha detto giustamente, non è il problema vero il costo del lavoro, è uno dei fattori il costo del lavoro. Ma il problema vero qual è? Che non so perché non si è riuscito ancora a cambiarlo. La logica di libero mercato impone ai nostri amministratori di lasciare le frontiere aperte. Allora, è successo in passato e sta succedendo anche oggi, non possiamo permettere di fare arrivare dalla Cina prodotti comparabili con questo pullover che io compro qui a decine di euro e arriva invece a pochi euro, senza dire a questi signori: guarda, tu sei libero di importare qua, ma fin tanto che non lavori in un contesto con gli stessi parametri che abbiamo noi in Italia, non posso permetterti di entrare liberamente, perché sennò ci ammazzano tutti, capite? È un discorso un po' più ampio, che non vuol dire annullare il libero mercato, ma vuol dire confrontarsi commercialmente e tecnicamente a parità di condizioni di lavoro. Almeno questo, se i nostri politici, i nostri amministratori non ci garantiscono questo, sarà sempre più difficile, perché ieri abbiamo sentito, erano i paesi dell'est, poi c'è stato i Balcani, adesso c'è l'Asia, tra qualche anno sarà l'Africa. e non ne andiamo fuori. Grazie, scusate se mi sono dilungato. Volevo un attimo raccordarmi anche a quello che ha detto appena adesso il signor Laverda e anche raccordarmi in maniera un po' dal punto di vista storico, perché chiaramente ci siamo fermati a parlare degli anni 75-76, ma fortunatamente dopo di allora la Zanussi, l'Occia e ora la Baxi hanno continuato a vivere e fortunatamente direi abbastanza bene fino ad oggi, poi ovviamente facciamo anche gli scongiuri. Però la nostra, in questo momento, se devo dirla tutta, il nostro punto di forza invece è il fatto che non ci siano troppe barriere, perché in questo momento l'azienda di Bassano sta esportando in Cina 35.000 caldaie. Ora uno dirà, ma come diavolo fa un'azienda del bassanese a esportare tante caldaie, relativamente tante considerando il mercato, in Cina? Beh, il fattore tecnologico ha un suo perché. La messa a punto di un prodotto che tiene conto delle specifiche, che tiene conto del tipo di gas, eccetera, eccetera, è un qualcosa che fa parte di un know-how. Però devo dirlo, se non fosse e grazie all'export, in questo momento anche l'azienda di Bassano, diciamo così, soffrirebbe un po' di più. Noi abbiamo fatturato i 250 milioni, su per giù, quindi questo è il fatturato consolidato del 2013 e più o meno quello che prevediamo almeno per quest'anno. E più o meno si mantiene abbastanza lineare. Ora, due terzi di questo fatturato va all'export, un terzo va all'Italia. Anche questo chiaramente fa capire una sofferenza di un mercato, non è sempre stata così, però una sofferenza del mercato che si mantiene negli anni. Quindi quello che sentiamo tutti i giorni, quello che udiamo, i nostri, come dire, vicini di casa, perché l'Electrolux è a qualche decina di chilometri, che combatte anche per un costo del lavoro. Chiaramente sono d'accordo, è una componente, non è l'unica parte, però è comunque una componente. E anche noi, come Bassano, ci confrontiamo con altre realtà del settore e anche con altre realtà del gruppo. Noi abbiamo, il nostro gruppo fattura circa 1.800.000.000, ha stabilimenti in Olanda, stabilimenti in Germania, in Francia, in Spagna, in Inghilterra, in Turchia. Quindi il confronto con gli indicatori che si diceva prima, giustamente, no? Che partono dal kilowatt per persona, che poi si sono trasferiti al fatturato per persona, che poi sono molto più sofisticati, perché nella gestione quotidiana chiaramente teniamo in conto soprattutto quello che è la redditività, perché è il parametro principe per la buona conduzione aziendale. Però ecco, tutti questi elementi sono termini di confronto e li teniamo sotto bada, perché giustamente è il mercato che lo richiede. Se dobbiamo essere competitivi, e ripeto, non a livello di costo del prodotto, ma di come riusciamo a posizionare quel prodotto, eccetera, eccetera, è uno sforzo notevolissimo, che però ha bisogno anche di un contesto macroeconomico che ovviamente faciliti tutto questo. Si parlava prima che negli anni 50-60 c'era già stata una crisi edilizia. Beh, la soffriamo ancora oggi e quindi c'è una certa ciclicità anche in questo, e con questo dobbiamo fare i conti. Quindi, ripeto, ci sono tanti componenti, sarebbe un po' riduttivo dire ma quella componente, dovremmo concentrarci su quella componente. Aveva un senso forse questo lavoro in quel preciso contesto storico. Oggigiorno è una parte degli elementi di competitività che servono per continuare a essere chiaramente primi attori. Nel 2012 la nostra azienda come marchio è stato quello che ha venduto più caldaie in assoluto nel territorio italiano, e questo è sicuramente un indice importante. Però ogni anno si azzera il contatore, si riparte e bisogna chiaramente darsi da fare per essere più competitivi dell'anno precedente. Questo richiede un'energia, ma richiede che ci sia anche uno sforzo anche da parte governativa, perché ovviamente deve esserci una tutela, ma non la tutela nel senso di chiudere le dogane o chiudere le barriere, perché questo andrebbe in contrapposizione. Quindi giusto per Mi permetto solo di ribadire un punto, perché forse sono stato troppo sintetico. Non è che io proponga la chiusura delle dogane. Io quello che penso è che i nostri amministratori, i nostri politici, i nostri ministeri devono tenere sotto controllo le importazioni e temporaneamente, se ci sono dei casi anomali che possono non mettere a rischio la vita di un'azienda, ma mettere a rischio la vita di un settore, come è successo nel tessile per esempio, è necessario fare qualcosa, insomma, non si può lasciare andare le cose volte. Perché per quanto bravi si possa essere nel mondo del lavoro, per quanto brava sia l'organizzazione, intesa come organizzazione di uomini, di persone, di capitale, di tutti i fattori, a volte ci sono dei eventi o delle situazioni a cui non si può controllare. Ed infine, e qui faccio riferimento, sono contento di sentire la sua relazione, che conosco meglio un po' la realtà di questo gruppo così grande e così importante. Però guardate che la struttura al 90% delle aziende in Italia è medio piccola, e per rimanere nel mercato bisogna fare ricerca, bisogna investire, bisogna sperimentare. Le aziende che hanno superato l'impasse negli ultimi anni devono investire dal 5-10% del proprio fatturato. Ecco, se voi vi guardate attorno, io non credo che nell'Alto Vicentino ci siano aziende medio piccole che possono permettersi il lusso di fare questo tipo di investimenti in questo momento, e questo è un grande punto di domanda per il futuro. E quindi a livello nazionale, a livello politico, più che dare sussidi alla cassa integrazione, bisogna dare sussidi alla ricerca e allo sviluppo per creare il terreno fertile per una nuova occupazione. Ecco, sono temi molto difficili, molto impegnativi, ma che mi auguro vengano affrontati con decisione in un futuro, perché sennò poverina l'Italia diventa sempre più fragile sulla rete. Concordo con lei, tant'è che nell'ambito della defiscalizzazione ci sono paesi europei che effettivamente hanno molti più vantaggi di noi, uno per tutti l'Olanda. Bene. Quindi la Confindustria, in questo senso, la Confindustria nazionale dovrebbe lavorare perché essere più persuasiva, ma non solo a livello nazionale, a livello europeo. E ancora adesso, continuiamo a parlare, perché come è stato detto onestamente, forse vedendo e rimeditando errori che sono stati fatti, o azioni positive, c'è sempre qualcosa da imparare. Allora, io faccio fatica a parlare delle smalterie, io sono figlio di un operaio delle smalterie, no? Io sono figlio di un operaio delle smalterie e avevo dei miei zii che lavoravano alle smalterie, perché a Bassano credo che una famiglia su quattro avesse un dipendente all'interno dell'azienda. E vi dico anche che uno dei ricordi più belli della mia vita, è stato il giorno in cui io ho messo i leoni d'oro, era il riconoscimento dell'anzianità che veniva dato alle smalterie, io ho messo addosso mio padre, io come amministratore e lui come operaio delle smalterie. È stata una scena che, guardate, l'ho qui e me la porterò fino in fondo. Per dire che dopo tutto questo mi è servito, perché fatto sindaco, dopo 3 mesi mi sono trovato con la prima avvertenza della smalteria che ho accennato il professor Paolo Pocanzi. E di lì è cominciata la serie degli incontri, è cominciata la serie delle discussioni, delle scelte, e devo dire che tutto quello che il professor Paolo ha detto circa quello che è avvenuto da quando il proprietario Karl Hermann Besten ha cominciato a capire e ho cominciato a pensare che era meglio dividere il management praticamente dalla proprietà, quindi con Minatti prima, con Bianchetti dopo e Colombo il terzo in sostanza, è stato una specie di tentativo di raddrizzare una situazione che andava purtroppo in discesa. L'amministrazione comunale quella volta ha dato una grossa mano, a noi avevamo la grande preoccupazione dell'occupazione, era logico che fosse così, non potevamo, però sapevamo che c'erano anche delle regole da un punto di vista industriale che andavano osservate, e anche se adesso è difficile pensare con la testa che abbiamo adesso, con tutto quello che abbiamo imparato, riportarsi a quegli anni in cui c'erano altre mentalità, altri discorsi che si facevano in sostanza. Perché è facile adesso giudicare, ma 30-40 anni fa, ecco, i discorsi erano molto diversi. L'amministrazione quella volta ha seguito le vicende di questo colloquio tra sindacati, sindacato molto forte, era forte il consiglio di fabbrica, e c'era l'azienda che andava un po' a tentoni, dobbiamo dirlo in sostanza. I sindacati erano tra l'altro sostenuti da tre personaggi che dopo nelle vertenze delle smalterie si sono rivelati di una levatura eccezionale, Viviani, Perini, Veronese, praticamente non per niente, uno è suo senatore, l'altro è stato segretario generale della Confederazione, eccetera. Ecco, per dire, c'era la possibilità di un colloquio che andava praticamente in profondità. L'amministrazione quella volta è stata al fianco, ha giocato tutte le sue carte che aveva, perché avevamo udienza in alto loco, possiamo dirlo in sostanza, no? Bassano sono venuti i ministri, è venuto il Presidente del Consiglio, eccetera, eccetera. Il discorso delle smalterie era sempre all'ordine del giorno in sostanza. E dobbiamo anche dire che grazie a questo grosso appoggio politico sono state trovate anche nella soluzione finale le soluzioni che dopo si sono sviluppate per conto loro. Questo per dire che le smalterie sono state al centro dell'attenzione, sono state un elemento positivo, hanno prodotto a loro volta praticamente attraverso una gemazione, ecco, tutta una serie di aziende, perché la FACM, la Samet, Pedrazzoli e tanti altri sono tutti di operai che sono venuti fuori dalle smalterie, i tecnici delle smalterie. E cito i più grossi, ecco, ma ce ne sono tanti altri che sono partiti e hanno creato una cultura industriale, hanno creato una cultura di lavoro molto importante in sostanza. Perché i prodotti delle smalterie erano buoni prodotti, non è che a un certo punto si producesse cose che non andavano bene. Quindi da questo punto di vista credo che sia estremamente importante iniziative come queste che ricordano questi passaggi. Accanto a questi due libri che sono stati lodevolmente propiziati dalla Baxi e scritti dal professor Favola assieme agli altri colleghi, ce n'è un altro, Amministrare lo sviluppo, sempre del professor Favaro, in cui si parla dell'azione amministrativo-politica degli anni 70-80 in sostanza, che è stato edito dal Comitato per la Storia di Bassano, e d'altronde sulle smalterie si parla anche nel saggio del professor Favaro, che è all'interno della nuova storia di Bassano. Quindi è una maniera di riproporre il tema perché sia presente, perché sia ricordato, perché tante lotte che sono state fatte e tanti sacrifici che sono stati affrontati, perché qui sarebbe, faremmo notte se si cominciasse a scendere nei dettagli, però la realtà di questa fabbrica è una cosa che non si può dimenticare e non può essere passata, diciamo così, sotto banco. Quindi io ringrazio questa opportunità che ci è stata data e che ci consente praticamente, ecco, di ricordare come tanti di noi che hanno passato gli inverni con la legna delle smalterie, o che hanno mangiato la minestra delle smalterie, o che hanno fatto tante altre cose in sostanza, perché quella volta la fabbrica era Bassano, in sostanza. Bassano si identificava come smaltierista. Però devo anche dire che è cresciuta una mentalità per cui nel momento in cui c'è stata la crisi, in cui c'è stata la divaricazione tra quella che dopo, adesso in questo momento, quello che era dall'altra parte, ecco, devo dire che tutto sommato ha consentito di crescere, ha consentito di far passare una crisi come questa che in qualche altro posto avrebbe potuto portare a delle conseguenze incredibili. Siamo riusciti a superarle perché, devo dire, quella volta partiti, sindacati, amministrazione, ecco, hanno fatto il blocco unico, tutti convinti che nelle battaglie importanti o si è insieme e ci si comporta praticamente tutti con lo stesso ideale, con la stessa preoccupazione, altrimenti le battaglie si perdono. Quella volta l'abbiamo vinta, è stata tutto sommato una grande fortuna. Grazie. Credo che molti di voi mi conosceranno, sono Severino Castellà, abbastanza anziano, ho la terza ruota, mi sostengo. E complimenti per la redazione, per il discorso delle smalterie. E direi che io sono di quelli che ha vissuto tutte le avversità delle smalterie, direi dagli anni 50 in poi. Però ero fuori del cancello delle materie, ero a capo degli operai, ero a difesa degli operai. Quello che non trovo tanto d'accordo su quello che è stato anche detto stasera, che il tutto ha bloccato è stato il sindacato. Non è vero. Io direi il sindacato è stato strappato, è stato diviso. Questa è la questione per cui tanti operai sono in strada, per cui tante famiglie sono in sofferenza. Questo è stato un castigo che è arrivato al mondo del lavoro, la divisione del sindacato. A me non piaceva, dal mio segretario generale, ai suoi tempi Pezzotta, che ha detto siamo per il patto per l'Italia. Io dico, ha sbagliato, doveva dire siamo per il patto dei lavoratori. Siamo solidari con tutti quanti quelli che attualmente stanno soffrendo. Grazie. Qualche altro intervento? Buonasera. Intanto ringrazio il mio collega nel Museo Civico per questa iniziativa che è ripreso a ricordare i 90 anni della nascita del smaltimento. Condivido pienamente la reazione che ha fatto il dottor Favaro. Qua diciamo, si tratta di fare discussione, chi ha torto, chi ha ragione. Mi pare che sia stato talmente chiaro, come si diceva nella sua esposizione, che ho deciso anche per prima, come si diceva il dottor Favaro, della Baxi. Quello che ha consentito che la fabbrica, come si diceva, pure queste difficoltà, pure questo travaglio che avevano, sia riuscita a ripartire e a dare ancora una realtà produttiva di circondiario. La forza che ha consentito questo risultato, la coesione tra i lavoratori. Quando c'è discussione, un sindacato diviso, a quei tempi là il sindacato c'era tutto quanto unito, c'era qualcuno che va bene, che parlava da causa, qualcuno che gli parlava, però il valore della questione determinante che ha risolto una questione è stato, come si chiama, proprio adesso operai, a coesione che c'era, purtroppo, no? Vicenda brutta, è stata possibile, come si chiama, di superarla, ma da un punto di vista, no, ecco, anche nel discorso, no, di come che si lavorava, come che si produceva il sistema del cotimo, l'avevo lo aggregheremo la coscienza, no? Come ci stiamo dicendo, no? E noi stessi, no? Aggregate appunto la vita professionale, no? Ma anche che mi ha consentito a superare le difficoltà. Se ricorderemo che in quegli anni, nel 1975, nel momento della chiusura del Mangherini, in Italia vi era più di un centinaio di fabbriche messe in liquidazione. L'unico stabilimento, l'unica fabbrica che era ripreso, che ancora non era ripreso, non c'è il Mangherini. E questo è stato soprattutto, come si chiama, merito degli operai, naturalmente delle forze politiche, dove avevamo una serie di circostanze, come si chiama, che era dalla nostra parte, no? Però mi ha consentito, come si chiama, di, ecco, di, dopo 90 anni, di essere ancora presente. Ecco, ringrazio ancora la Biblioteca Museo per la iniziativa e parlo con tutto, perché, come che diceva il senatore Fabrici, purtroppo la storia dei smalterini è la storia del massacro. Certo. Allora, per concludere raccolgo i ringraziamenti di Valerio Zanon e li rivolgo prima di tutto al nostro relatore, il professor Giovanni Favero, al direttore generale della Vassi, che è stato nostro gradito ospite, a tutti voi che siete stati presenti qua e direi anche alle persone, e sono molte presenti, che ci hanno aiutato prestandoci oggetti, materiali, documenti, che uniti alle fotografie che abbiamo potuto trovare presso l'archivio esistente alla Vassi, hanno dato vita a questa piccola mostra. Piccola mostra che rimarrà aperta per i prossimi 2 mesi, quindi sarà possibile visitarla, vedere con calma. E anticipo già, intesa col direttore generale della Vassi, che l'anno prossimo ci sarà una mostra e una serie di manifestazioni ancora più importanti e più ampie, in vista delle quali invitiamo tante persone presenti che hanno storie, vicende, testimonianze, documenti, materiali, a tenersi in contatto in modo tale che possiamo volentieri riprendere questi risorsi. Ringraziamenti ancora e saluti al prossimo appuntamento. Ciao. Thank you. Ciao. Fammi un sorriso. Guarda che provocatore. Ma non mi sono mai detto che si inquieta, ma sai che vuole, ma poi che ti fa bene.